9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 18 di maggio. Ieri un eurovertice telefonico in vista del G8 a Washington, ma mi pare che da questo punto di vista il titolo più azzeccato sia quello della Stampa di Torino, diretta da Calabresi, perché il titolo è "Crisi l'Europa prende tempo". In realtà chiacchiere, questo è il punto di fondo. Per capirci su queste chiacchiere, prima di arrivare ai nostri due punti della giornata, di questa trasmissione saranno una riflessione sulle parole di Mario Monti, ieri pronunciate a Equitalia, visto che la tensione per contribuenti e imprese sui mancati pagamenti dello Stato, sulle mancate compensazioni fiscali e sulla pretesa enormemente accresciuta fiscale dello Stato è uno dei tre punti caldissimi della crisi italiana, e vedremo che cosa ha detto Monti, come giudicarlo. Secondo punto invece, l'incontro andato male ieri con l'associazione di impresa e il governo, esattamente sul punto dei provvedimenti che il governo propone per avviare, almeno parzialmente con tempi lunghissimi, a posto la vergogna dello Stato ladro che non paga i suoi debiti commerciali alle imprese e i suoi crediti fiscali alle imprese, e vedremo come e perché siamo ancora lontani da un schema di provvedimenti soddisfacenti. Ma prima di questo, qualche riflessione ancora su quello che sta avvenendo in Europa, perché la situazione, l'avete sentito, siamo a 450 di spread già questa mattina, ed è una situazione, diciamo, complicata, molto complicata. Per non essere sempre e solo pessimista, visto che i segni della fuga dalle banche che sono in atto in Grecia e in Spagna sono i segni di come potrebbe avvenire, purtroppo, la peggiore delle ipotesi. Il bank run, come si dice in gergo tecnico, è il classico scenario in cui si perde il controllo della situazione, no? Esattamente quello che accadde dopo il venerdì nero del 1929. E quindi, per esempio, ieri una parola su un meccanismo straordinario di tutela delle banche per evitare la fuga dai depositi sarebbe stata fondamentale, se concertata nell'eurovertice telefonico e BCE, ma non c'è stata. Allora, comincio da una cosa un po' positiva, se volete, perché sono ripresi i sondaggi elettorali in Grecia in vista delle elezioni del 17 del prossimo mese, di giugno, e la cosa positiva, e che potrebbe aiutare moltissimo se fosse confermata nelle prossime settimane, è che da questo primo sondaggio ad andare in testa nel prossimo Parlamento greco sarebbero i conservatori di Nuova Democrazia al 26,1%, ma non è questa la cosa positiva, è che sono filoeuropeisti, e nel sondaggio il PASOK, cioè i socialisti, l'altro partito europeista che hanno condiviso nei mesi alle nostre spalle i pacchetti di salvataggio greco, e che pure ha perso 30 punti, il PASOK, sommato ai seggi di Nuova Democrazia, avrebbe una maggioranza, e quindi a quel punto non si configurerebbe lo scenario, diciamo così, più esplosivo. Quindi vediamo se questi sondaggi vengono confermati. Quindi Siriza, il partito di sinistra radicale guidato da Tsipras, sarebbe solo al secondo posto, ma insomma non vi sarebbe un'esplosione di tutte le liste della protesta. Vediamo come vanno le cose nella prossima settimana. Intanto ieri Fitch, lo avete sentito, ha abbassato il rating della Grecia a CCC. E a questa notizia, qual è stata la reazione tedesca? Se trovate su Handelsblatt i commenti, c'è un commento che mi ha colpito di Rainer Bruderle, che è il capogruppo dei liberali al Bundestag, e cosa ci dice Rainer Brüder? Dice che se 2 anni fa si fosse messo mano all'uscita della Grecia dall'euro sarebbe stato come buttarsi dal 10° piano e quindi l'esito sarebbe stato mortale per tutti. Oggi è come purtroppo cadere dal 2° piano, quindi si può pensare a qualche danno grave, ma se si cade bene qualche ossa rotta e non conseguenze mortali. Ecco, attenzione, perché poi magari ci si rompe l'osso del collo, dipende quale osso ci si rompe. In Francia Le Monde si interroga sul fatto che il ministro degli esteri Laurent Fabius è uno che ha votato no al referendum sul trattato europeo del 2005. A proposito di referendum, in Irlanda è scoppiata un'enorme polemica perché il ministro del lavoro Richard Bruton ha detto: no, se gli irlandesi dovessero respingere il fiscal compact noi rifacciamo il referendum. Il governo è stato costretto a dire no, ebbene non è che possiamo prendere in giro i nostri elettori, e quindi da questo punto di vista, come vedete, è sempre più problematico la coniugazione di suffragio universale e vincoli europei. Un'ultima segnalazione: Jean-Claude Trichet, lo ricordate, l'ex presidente della BCE prima di Mario Draghi, ieri ha proposto un altro meccanismo che ci fa riflettere a proposito del difficile connubio democrazia-vincoli, perché ha proposto, nel caso di fallimenti sovrani, come nel caso della Grecia, di istituire una procedura di bancarotta controllata che però preveda a quel punto la presa in carico della politica fiscale e di bilancio di quel paese da parte delle istituzioni comunitarie, cioè una sospensione della democrazia. E Trichet ha detto: lo chiamo federazione per stato di eccezione. A quel punto lo Stato viene federato con un commissariamento vero. E questo è un ex presidente della BCE, per così dire. Ecco, questo è il quadro nel quale si va al G8. Un G8 nel quale l'Europa è la grande ammalata a cui tutti guardano con sospetto, e mi pare che ne abbiano ragione, per così dire. Allora, prima di iniziare con le parole di Monti a Equitalia, vediamo un secondo il punto, vediamo di fare il punto su come e perché le associazioni di impresa oggi, anzi ieri, ma anche oggi perché gli incontri tecnici proseguono, hanno dovuto opporre delle fondatissime, a mio giudizio, obiezioni ai provvedimenti che il governo sta procedendo a proporre per i debiti della pubblica amministrazione, i debiti commerciali e quelli fiscali. Tra l'altro segnalo che al testo che è in discussione alle attività produttive della Camera, che ha cominciato il suo iter e in cui si sperava di incardinare la soluzione di questi annosi problemi, ieri per l'ennesima volta la Ragioneria Generale dello Stato ha messo 5 righette che hanno fatto venire un coccolone a noi tutti, perché la Ragioneria Generale subordina i termini del pagamento, cioè del recepimento della direttiva europea per il pagamento dei debiti commerciali dello Stato alle imprese, a un decreto che emetterà lei, un decreto ministeriale, mentre invece naturalmente è tra privati che si prescrive l'assoluta obbligatorietà dei 60 giorni, cioè lo Stato dice ai privati: il problema è vostro, il mio ci penserò io dopo. Ecco. Comunque questo si può intendere anche solo come una riserva per verificare la convergenza sui meccanismi che stanno nei decreti con i quali è in atto il confronto con l'associazione di impresa e con l'ABI, e abbiamo con noi il segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli, che anche egli segue il tavolo tecnico. In questi giorni è stato, a mio giudizio, uno dei più espliciti, concreti nel dire come e perché quello che sta purtroppo fino a questo momento proponendo il governo non può configurare in nessun modo una soluzione soddisfacente. Buongiorno e grazie a Cesare Fumagalli. Buongiorno a tutti. Allora, spiega a chi è in ascolto e magari non è troppo tecnico di fronte a che cosa siamo e perché è ragionevole dire al governo: ripensateci bene, perché per il momento non ci siamo ancora. Beh, è un tentativo di finora non troppo generoso di porre soluzione ad un problema le cui dimensioni sono diventate forse note anche al grande pubblico, ed è quello della somma dei debiti che la pubblica amministrazione complessivamente presa ha nei confronti delle imprese. Sono 70 e più miliardi di euro che stanno per un terzo in capo ad amministrazioni centrali statali, per due terzi in capo a comuni, province, regioni, a tutti gli enti locali, e che costituiscono, potrebbero costituire oggi una di quelle leve tanto invocate per far ripartire il paese. Dicevo però che le soluzioni prospettateci fino a qui sono molto a ribasso, molto tendenti a conservare la situazione di oggi. E la nostra critica si appunta proprio su questo fatto. In un momento così teso, in un momento di così tanta necessità per le imprese di disporre, per esempio, di liquidità, un'iniezione reale di liquidità avrebbe uno straordinario effetto. Così come straordinario effetto al contrario invece può avere una serie di annunci che non abbiano poi concretezza, non arrivino alle imprese, non arrivino in tempi rapidi e non arrivino in condizioni di spendibilità vera. Allora, tra i tanti punti aperti ci sono limiti molto forti a utilizzare questo meccanismo di certificazione proposto dal governo per fare le azioni esecutive, ci sarebbero limiti molto forti perché non varrebbe naturalmente poi la possibilità di avere il pagamento per amministrazioni pubbliche sottoposte a programmi di rientro coatto come quelle sanitarie, non solo nel mezzogiorno, ma sono quelli poi in cui i fornitori sanitari hanno i debiti pendenti pluriennali più gravi per la loro continuità aziendale. Se fare il meccanismo di computo del debito e quindi del credito delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni al lordo o al netto, quindi mi pare che siano punti molto fondamentali. Ma la domanda che faccio a lei, Fumagalli, è: come mai il governo sulla possibilità di utilizzare su vasta scala non il fondo di garanzia che vuole accendere al tesoro per tutelare le banche, ma cassa depositi e prestiti come garanzia che la pubblica amministrazione, che deve rimanere lei esposta verso le banche, non le imprese che vantano il credito della pubblica amministrazione, utilizzare la cassa depositi a piena copertura di un pagamento che non fa deficit del debito e delle compensazioni e dei crediti fiscali? Come mai il governo su questa cosa della cassa depositi e prestiti, secondo lei, non ci sente proprio, visto che, lo ripeto, la somma degli impieghi a favore del sistema delle imprese in Francia, in Germania, di KfW voi di cassa dei depositi, che è l'equivalente di cassa depositi e prestiti italiana, anch'esse fuori dalla linea del deficit del debito pubblico per accordo europeo, ammontano, sommando i due paesi, il solo intervento nelle imprese a 197 miliardi di euro. Perché da questo orecchio il governo non ci sente, secondo lei? Giannino, io credo di avere le stesse domande sue, non ho le risposte, vanno fatte ad altri queste domande. Io quello che capisco bene è invece che mi pare nascondersi dietro un dito questa operazione che tende ad evitare che i debiti veri vengano alla luce come tali. Io ho sempre visto che i mercati apprezzano di più la sincerità che non i nascondimenti anche sofisticati, e quindi noi stiamo sostenendo la necessità che si faccia per tranche, si faccia... voglio dire, non diciamo oggi tutto subito per domani mattina, lo si fa, e secondo noi la proposta principale nostra è quella di andare ad una compensazione debiti crediti che oggi è quasi preferibile al pagamento diretto da parte, sicuramente preferibile rispetto all'emissione di certificati che hanno poi i dubbi che ha detto lei e molti altri. Però, dicevo, la compensazione debiti e crediti avrebbe anche un valore simbolico che finalmente farebbe rimettere Stato e cittadini che fanno gli imprenditori sullo stesso piano di parità. Io credo che anche questo aspetto sia oggi particolarmente importante alla vigilia di una sequenza di settimane che faranno sicuramente alzare le tensioni che ci sono già oggi. Mi riferisco all'avvio del pagamento dell'IMU tra qualche settimana, alla metà di giugno, che proseguirà col pagamento dell'IRPEF e dell'IRES in una sequenza di settimane che sarà, metterà in luce che lo Stato si cela dietro a tutte le difficoltà di contabilità nazionale, di decreti che cercano di dire senza dire, di pagare con la formula del prosolvendo e del prosoluto, siamo arrivati a riscomodare il latinorum, finiti le terminologie inglesi che sostanzialmente però mascherano un rapporto. Mascherano il fatto che non pagano poi alla fine, questo è il punto di fondo. Io la ringrazio, signor Fumagalli, perché mi sembra poi che lei non sia diplomatico, vada al punto della faccenda. Qui c'è uno Stato che pretende per sé, siccome fa le leggi per sé, la simmetria. Norma i debiti e crediti tra privati e sui suoi si volge dall'altra parte, pretendendo in questo di dover essere apprezzato perché è rigoroso. Io avviso chi è in ascolto che oggi noi avremo un'altra novità che arriva, perché oggi il Centro Studi di Ricerca dell'ANCI, l'IFEL, renderà noto ciò che i sindaci hanno pian piano scoperto negli ultimi mesi. Alla fine l'ANCI ha messo a sistema il conto generale di questo pastrocchio aggiuntivo che si scatenerà sulle nostre teste per l'IMU, perché siccome l'aliquota è gettito presunto calcolato dal governo centralmente, a cui i comuni sono tenuti perché devono dare quella cifra anche se in realtà i conti del governo fatti centralmente sono sbagliati del gettito atteso da quelle aliquote, hanno un effetto paradossale per il quale pur in presenza di un gettito stimato di 2,4 miliardi in più rispetto alla vecchia ICI 2010, i comuni ci perdono 5 miliardi che si riprende lo Stato, e ci riprendono perché il computo, ripeto, del gettito sull'aliquota stimata centralmente è stato fatto approssimativamente, spannometricamente, coi piedi, insomma, come troppe volte c'è conferma lo Stato di essere in grado di fare. Per questo l'aliquota IMU dovrà ulteriormente aumentare, perché altrimenti i conti non tornano e i comuni vanno ulteriormente sotto di miliardi, capito? Aumentare. Vabbè, chiudiamo questo capitolo dopo aver ringraziato Cesare Fumagalli e torniamo al capitolo di cui ci occupavamo ieri e di cui dobbiamo continuare a occuparci a maggior ragione dopo la visita di Monti a Equitalia, e cioè il pessimo rapporto che molte imprese e contribuenti hanno in maniera crescente con la riscossione e con la pretesa accresciuta dello Stato. Abbiamo con noi Michele Regina, che è direttore generale del personale di Tempor. Tempor è un'agenzia per il lavoro, è una grande agenzia per il lavoro. È ovvio che in un paese in crisi l'ultima cosa a cui bisognerebbe pensare è quella che lo Stato, con le sue pretese fiscali e con le sue barocche bizantine procedure di aggravio degli adempimenti, metta in difficoltà proprio coloro che dovrebbero rappresentare uno dei canali prioritari per il matching, per il confronto tra domanda e offerta di lavoro, quando i disoccupati crescono verticalmente e le imprese sono in difficoltà. Eppure Michele Regina ci ha scritto, il direttore generale di Tempor, per spiegarci qual è esattamente la vicenda che sta accadendo loro. È così? Pronto, buongiorno. Eccoci, sì, buongiorno. Buongiorno, sì, è così. Purtroppo sembra una vicenda, come dire, kafkiana, che se uno la legge evidentemente non può essere che questa sia la realtà, ma è così. In effetti la nostra azienda, dottor Giannino, aveva assunto nel 2000-2002 110 lavoratori a tempo indeterminato e full time, disoccupati da più di 24 mesi e con un requisito anagrafico al di sotto dei 25 anni. In virtù di questa assunzione, per una legge dello Stato, cito la legge 388 del 2000, l'articolo 7, l'azienda aveva diritto a vantare e fruire di crediti di imposta base e crediti di imposta aggiuntivi per le assunzioni fatte al Sud. Orbene, cosa succede? Ormai ovviamente mi viene da sorridere, perché siamo alla quinta sentenza di giustizia tributaria a noi favorevole. noi ci vediamo recapitare nel 2008 prima un avviso bonario dove l'Agenzia delle Entrate per il tramite di Equitalia di Milano ci chiedeva la restituzione di ben 755.000 euro comprensivo di sanzioni ed interessi. Nonostante ci fu la fase stragiudiziale delle spiegazioni con l'ufficio che richiedeva le somme, l'ufficio non volle sentire da quell'orecchio. Arrivammo ovviamente in contenzioso tributario e la CTP di Milano riconobbe a noi il diritto di poter fruire annullando quella cartella di 755.000 euro. Esattamente dopo un anno ci viene recapitato sempre dal coacervo di quei crediti un ulteriore avviso per il recupero di 112.000 euro, facenti sempre parte del totale complessivo dei 755. Io la dico in breve per essere esplicito e far comprendere ai radioascoltatori. Noi spieghiamo per le vie stragiudiziali all'ufficio che forse si sbagliava, l'ufficio non sente ancora ed emette una nuova cartella, questa volta per l'importo di 170.000 euro, comprensivo ovviamente di sanzioni di interessi oltre 112 che reclamava. Noi facciamo ricorso verso questa cartella e la Commissione Tributaria di Milano riconosce il nostro diritto al credito e quindi annulla la cartella. L'Agenzia delle Entrate subito dopo una distanza di neanche 2 o 3 mesi ci fa recapitare un atto di recupero per lo stesso importo di 112.000 euro che noi puntualmente impugniamo presso la CTP di Milano e nuovamente la CTP di Milano dà ragione a noi per questa fruizione di crediti e annulla l'atto di recupero. Premetto che ogni sentenza a noi favorevole ha visto sempre la preventiva sospensiva degli atti da parte della CTP di Milano. L'Agenzia delle Entrate, tra le altre cose, riguardo quest'ultima sentenza a noi favorevole, impugna presso la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia, ma non è finita qui perché subito dopo quest'atto di recupero che doveva essere annullato e che noi abbiamo notificato per le vie formali agli enti preponenti, ci arriva una cartella correlata all'atto di recupero per l'esatto importo di 112.000 euro. Orbene, questa cartella è stata per ben 2 volte e recentemente sono state depositate nel mese di aprile ultimo scorso, depositate le sentenze presso la CTP di Milano. La CTP di Milano con 2 sentenze distinte riconosce la validità e la giustezza del comportamento aziendale. Ma perché lo riconosce? Perché l'Agenzia delle Entrate, costituendosi, propone al giudice in commissione gli atti totali di sgravio, pur tenendo in piedi un ricorso presso la Commissione regionale lombarda, il che ovviamente è un controsenso nel momento in cui tu ufficio riconosci la giustezza del comportamento dell'azienda annullando il tuo atto con un atto formale di sgravio, non puoi tenere in piedi un'altra situazione di appello presso allora io non l'ho interrotta perché le lettere che noi abbiamo qui che continuano a impilarsi sul tavolo i disperati mai @radio24.it in centinaia e centinaia di casi inanellano questa successione di impugnative, sentenze favorevoli, l'amministrazione tributaria che insiste, impugnative, sentenze favorevoli al contribuente, l'amministrazione tributaria che insiste, cioè l'atteggiamento è qualche cosa hai da pagare e regolati, perché una volta che noi abbiamo messo in atto tutto l'iter procedurale, che ovviamente ha un costo pubblico eccetera eccetera, noi non ci rassegniamo. Il caso singolare, e io ringrazio Michele Regina per avercelo segnalato, per avercelo raccontato, e che questo si applichi naturalmente senza guardare, perché l'amministrazione tributaria non ha facoltà di discriminazione positiva e di discernita dei casi contribuente per contribuente, naturalmente anche a chi si è dato a fare per assumere la gente che è finita disoccupata da lungo tempo nel nostro paese. Capite che questo iter che ci ha raccontato Regina è la fotografia, come dico spesso, di uno Stato che è stupido prima che ladro, e ladro insieme a stupido, e quindi purtroppo io, nel ringraziare Michele Regina e augurandomi che ci sia un'amministrazione tributaria nei confronti della quale il Presidente del Consiglio, il governo in carica, si assuma la responsabilità di dire scusa agli italiani, ci deve chiedere scusa Monti a nome di tutti quelli prima di lui che hanno messo in fila questa normativa e queste procedure demenziali. Non è colpa di Monti, no, ma gli italiani hanno bisogno di un gesto simbolico che fondi concretamente, in termini immediati, una riforma su termini di civiltà e non di autoritarismo del sistema tributario italiano. Grazie Regina, e siamo in ritardo con la pubblicità. E torno in studio per dirvi che continuano poi ad arrivare lettere di fronte alle quali ti prendi la testa tra le mani e ti chiedi quale sia il tuo compito, visto che poi c'è chi continua a dire che ci siamo inventati tutto, che è informazione eccessiva, schizofrenica, che bisogna pensare positivo. Certo che bisogna pensare positivo, ma per pensare positivo bisogna partire dalla constatazione della realtà, così come io ho una lunga lettera in mano di una imprenditrice che è fallita, è un'imprenditrice la cui azienda, voglio dire solo la città perché prega di non dire il nome e il cognome, purtroppo la sua impresa è facilmente identificabile, un'impresa storica che risale all'Ottocento, un'impresa che ha avuto il titolo per partecipare alle celebrazioni ufficiali del 150esimo dell'unità, ed è un'impresa, quella della signora T, la chiamo solo con le iniziali, che testimonia poi come non ci sia solo il problema dello Stato ladro, perché non è così, perché nella lunga storia che lei racconta, che sbocca poi in un fallimento improvviso, ci sono concorrenti, clienti e fornitori privati che aprono e chiudono società, ed è una tecnica purtroppo che esiste per tirare bidoni, perché si aprono società, ci si mette dentro fatture eccetera eccetera, le si chiude immediatamente, e così naturalmente poi la possibilità di rivalersi per chi aspetta i soldi si annulla rispetto alla sua liquidità che si abbatte. È una storia anche di avvocati che assistono insieme parti correlate contrapposte e decidono a tavolino chi far vincere e chi far perdere. È una storia in cui in una piccola città di provincia le banche, nel concedere e negare affidamenti e naturalmente nel far saltare erogazioni di finanziamenti già deliberati dal comitato crediti, contano le relazioni personali più che il merito e la storia di un'impresa. È una storia amarissima questa della signora T, che descrive poi come nella pancia profonda anche del mercato, delle imprese private italiane, del sistema del rapporto con le banche, ci siano infinite cose che non vanno. Quindi io questo ho l'obbligo di dirlo, perché sennò sembra che poi sono un matto che ce l'ho solo con lo Stato. E la cosa però terribile della lettera è che la signora T a un certo punto dice: io ho due figli 12 e 17 anni da crescere, e quello di 12 anni ha avuto un problema anche di salute, io perché era stato scelto nella catena di fornitura anche per i treni privati concorrenti di Ferrovie dello Stato, naturalmente l'impresa è fallita, e lei pensa incessantemente di buttarsi sotto il treno, e ce lo dice col tono di una certa freddezza. Allora, di fronte a questo tu non sai che fare, perché dici: cosa fai? La chiamo e scrivo, certo, ma cosa conta che io la scrivo? Allora, ieri avevamo sospeso la riflessione solo negli ultimi minuti con Leonardo Mendolicchio, psicologo e psicoterapeuta, che ci diceva appunto di come nel caso, sempre in generale con una certa rilevanza statistica nel fenomeno di suicidio, tentati suicidi, ma poi nel caso dell'imprenditore che ha un codice di comunicazione pubblico molto forte, come lo vogliamo chiamare, un senso dell'onore e della rappresentanza del fare impresa, dell'assumere dipendenti, dell'essere punto di riferimento pubblico, e quindi nell'autostima valoriale elevata, stata, in questo caso, come in tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche più elevate del privato cittadino che fa lavoro dipendente o fa il professionista, ma non si sente per questo, e non lo è davvero nell'organizzazione della società più in alto, per le responsabilità che lo legano ad altri, ai dipendenti, ai fornitori, ai collaboratori, a tutti gli stakeholder. In questo caso il grido di comunicazione che veniva e viene da ogni tentato suicidio o da ogni suicidio purtroppo realizzato, ci stava spiegando ieri Leonardo Mendolicchio, e qualche cosa su cui riflettere più approfonditamente. Riprendiamo di là perché lo abbiamo richiamato, avete sentito ieri alla fine della trasmissione, ed è di nuovo con noi. Buongiorno e grazie a Leonardo. Buongiorno Oscar, rettifico, psichiatra, psicoterapeuta. Ecco, giusto. Specifica la questione. Allora, ieri quando ti ho interrotto stavi citando Lacan, in realtà. Sì, citavo Lacan che sosteneva appunto come la funzione paterna, la funzione simbolica paterna, sta nel mediare in ogni singola vita di ogni soggetto la legge, l'etica e il desiderio, per cui la traiettoria di ogni esistenza. Lo Stato dovrebbe rappresentare questa funzione paterna, dovrebbe, come tutti i grandi padri che appunto devono assolvere a questo compito di mediare tra la legge e il desiderio. Potremmo dire che l'ultimo periodo storico nel quale tutti quanti noi viviamo, questa funzione dello Stato in qualche modo è venuta meno, ed è venuta meno soprattutto da due punti di vista. Lo Stato si è dissolto dal punto di vista della funzione paterna, dal punto di vista etico. Se noi vediamo e osserviamo la crisi politica nella quale viviamo, possiamo ben capire come questo aspetto etico nel mediare appunto la legge e il desiderio dal punto di vista politico non esiste più, e questo già è un punto che fa smarrire il soggetto, noi tutti i cittadini. Il secondo aspetto in cui si è dissolto lo Stato è la faccenda materiale, quella economica, quella finanziaria. È come se oggi lo Stato non riuscisse più a garantire una logica materialistica alla vita quotidiana di ogni soggetto. Questa cosa ovviamente, come dire, getta nello sconforto, ma c'è un aspetto che secondo me è ancora più interessante e direi pericoloso di tutta questa faccenda. Nonostante ci sia questa dissolvenza della funzione paterna dello Stato, c'è una recrudescenza dell'attività di questo padre che più che sostenere vuole godere di noi cittadini, perché tutto quello che noi sentiamo attraverso le sue legittime, e sottolineo due volte legittime, pubblicità rispetto alle situazioni che capitano tra i contribuenti e lo Stato, ci mostra che non solo appunto questo ha smesso di garantire e sostenere i cittadini, ma pretende anche in un modo un po' bislacco in certe circostanze. La politica del rigore, non sostenuta invece da appunto una funzione reale di sostegno ai cittadini, la politica, diciamo, una politica economica che si fonda appunto su chiedere inopinatamente in un contesto così di crisi, comunque mette i cittadini e le varie soggettività in una situazione di profonda crisi. E di tutto questo chi se ne fa carico? Il punto è questa la domanda. Siamo in un periodo in cui dal punto di vista etico, dal punto di vista materiale, le cose non vanno bene. Non solo questo, in più viene chiesto in maniera del tutto inopinata, senza capire quali sono i contesti, senza capire quali sono i reali bisogni. E i cittadini, i soggetti, a chi devono appigliarsi in questo contesto? E questa è la cornice nel quale, diciamo, il disagio psichico in relazione a questa crisi si muove oggi. Allora, io ti interrompo un secondo perché dobbiamo andare nelle informazioni stradali. La sintesi impropria, e come sempre quella è giornalistica, di una persona che non ha naturalmente le basi né della psichiatria né dello psicoterapeuta, è che lo Stato non è solo ladro, poi dal punto di vista del diritto, li parlo in maniera più ferrata, e anche, a questo non avevo pensato, diventato un padre degenere. E il padre degenere che viene meno ai suoi doveri e anzi incattivisce e si allontana negando la stessa funzione fondativa della sua percezione nei confronti dello Stato comunità formato da noi tutti rispetto allo Stato persona che è lui, fa venir meno anche questa ancestrale ancestrale identificazione di quello che poi è il fondamento del patto sociale. Io non ci avevo pensato e ringrazio Leonardo per averci fatto pensare, ed è una delle risposte secondo me più fondate al fatto che noi dobbiamo continuare a occuparci di questo fenomeno, non avere paura che parlandone spingiamo l'emulazione, al contrario noi vogliamo dissuadere, però qui le lettere continuano ad arrivare e ripartono tristemente i Doors. Sentiamo qualche testimonianza. Renato da Milano, prego Renato, qual è la tua esperienza con l'apparato tributario dello Stato? Buongiorno a tutti, dottor Giannino, sono sempre con lei comunque in ogni caso, al di là dei colori, delle bandiere. Io non ne ho più, cioè bandiera verde perché siamo al verde, questo è il punto. Comunque Renato, prego. Beh, bandiera verde come simbolo del verde, sì. Io a novembre 2010 ho ricevuto una cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate, e la quale mi chiedeva di pagare 750 euro di praticamente redditi soggetti a tassazione separata, che non ho mai capito, vabbè, solo chi è infarinato può capire bene cosa vuol dire. Lavoravo per una cooperativa e non so nemmeno se mi toccava pagarle. Ho telefonato per prenotare per poter rateizzare, prenotare l'appuntamento. Sono andato all'agenzia di Milano, Piazza Stuparic, e quando mi sono trovato di fronte al signore che doveva così risolvere il mio caso e rateizzare, mi ha detto che era scaduto il giorno prima. Cioè, mi ha dato l'appuntamento un giorno prima che... cioè il giorno dopo che scadeva. E lei è riuscito a trattenere quello che naturalmente sarebbe stato considerato un atto inconsulto, ma forse era un po' fondato, cioè una reazione diciamo un pochino fuori dai gangheri, perché a un certo punto invece, ma vi state prendendo in giro. Sì, guardi, dopo 4 mesi mi è arrivata da 750 a 1137, altro che il dottor Befera dice, guardi, adesso è 1 anno e mezzo che non ho notizie. Si attento, è meglio che se le procuri, perché sennò arriverà 2500, ecco. Renato, perché ma guardi che sono ritornato altre 2 volte, fino a oggi non mi è stato possibile pagare. Ecco, bene. Mio Dio. Sentiamo rapidamente Nicolò da Prato, qual è la sua esperienza invece? Buongiorno dottor Giannino, grazie per tutto l'interessamento che ha nei nostri confronti. E qualche anno fa mi è arrivata una cartella di Equitalia attraverso la quale mi chiedevano 20.000 euro di IRPEF. Quindi per dover pagare 20.000 euro di IRPEF ovviamente devo aver guadagnato una discreta cifra. Certo. Mi rivolgo all'ufficio delle entrate e devo dire che il direttore competente dell'ufficio delle entrate di Viareggio si è dimostrato molto attento. Sì. Ha fatto un'indagine molto rapida sul mio codice fiscale e ha rilevato che io non avevo percepito questi... Quindi era un errore. Comunica il tutto a Equitalia, la quale, non curandosi minimamente di questa comunicazione, mi pignora un appartamento che avevo venduto 4 anni prima. La cosa potrebbe sembrare kafkiana, nel senso che non è mio l'appartamento, sì, la preoccupazione sarà del proprietario, di qualcun altro. La sola cosa che mi ha danneggiato è che mi sono ritrovato in centrale rischi con un pignoramento, al che mi attivo e solo davanti alla minaccia di rivolgermi alla Procura della Repubblica li ha indotti dopo qualche mese a fare questa cancellazione con tutti gli strascichi. Nicolò, che ti devo dire? In effetti i casi kafkiani, se fossero eccezioni, potrebbero portare a legittimare le parole di Monti di ieri, ma sono così fitte, sono a decine di migliaia, che purtroppo io credo, la mia conclusione di oggi, è che il Presidente del Consiglio Monti ieri ci ha profondamente deluso quando dice che la rabbia è figlia dell'insicurezza. No, la rabbia è figlia delle leggi scritte, interpretate e confermate di uno Stato che è ladro. E il Presidente del Consiglio in carica, anche se non ne porta responsabilità, il giorno che lo ammetterà rifonderà in maniera civile e accettabile l'ordinamento tributario italiano. Altrimenti bisogna urlare nella legge, ma urlare. Appuntamento a lunedì.